La persona corrotta è una persona che non è più uno, ma è fatto di frammenti. L'uomo corrotto è l'uomo che ha diverse volontà, diversi desideri, uno contro l'altro. Quello è già corrotto. Bene, purtroppo, in conseguenza delle pessime autorità che abbiamo frequentato nelle nostre vite, che hanno guidato le nostre vite, e l'autorità, parentesi, è colei che ha come compito da augere, autorità, vuol dire far crescere. Se tu sei maestro di pianoforte, io vengo da te, tu sei un'autorità, nel senso che ne sa molto più di me, ne sai molto più di me, io ti stimo per questo e volentieri seguo quello che tu mi dici, così anch'io diventerò bravo. Ma tu ti prendi cura di me, questa è l'autorità. L'uomo ha bisogno di autorità a differenza di animali, perché l'uomo non è guidato da istinti e ha bisogno di qualcuno che è un po' più avanti di lui per poterlo aiutare a fare i passaggi necessari. I genitori sono autorità. Senza genitori o senza qualcuno che aiuta, il bambino non può crescere. Ma le autorità dei genitori sono integre, sono interi? Non è così. Molti genitori hanno delle fratture interiori, hanno dei traumi. Quindi non possono occuparsi dei bambini in modo vero. Ci sono madri che ogni tanto mostrano ai bambini un'aggressività terribile. Basta che succeda poche volte. Perché la madre fa così? Perché ha dei problemi non risolti con la propria madre, con il proprio padre, che in certi momenti saltano fuori. Ebbene, i problemi non risolti dei genitori vengono messi in scena poi dai bambini, dai figli. E poi i genitori portano i figli dagli psicologi, dicono: guardi come è conciato. Ma quello non è altro che la manifestazione della famiglia in cui è vissuto, non solo della famiglia. Perché se la famiglia non riesce a creare un bambino, un ragazzino nevrotico, ci pensa la scuola e si rimedia subito. Se anche la scuola fallisce, perché a volte succede anche questo, allora ci pensa il luogo di lavoro, dove spesso i capi sono selezionati tra le autorità peggiori che esistono. Ma questo l'ho visto quasi sempre. Cioè tra coloro che non si prendono cura degli altri, ma li sfruttano, li opprimono sadicamente, a volte semplicemente per il gusto di opprimere, altre volte perché ne traggono vantaggio.